briciola, su cariamo, su, su, funziona, briciola. Ma che ammazzo. Ah, Luca, tu sì che mi capisci. Sì che mi scaldi il cuore. Ah, mamma mia, quando si tratta uno sulle carrozze dei piedi. Briciola, ci si. Hola. Hola. Attenzione al canale 10, cambio. Manuel, ci si. Che va? Ehi, sta aspettando salsiccia Manuel adesso. Oh, io... Progaridade. Hai visto che ti ho mandato qualcosa su WhatsApp? Adesso. E poco fa. Aspetti, guarda. 9.40 di Riccardo, sì. Sono con tutto a zero. Ho 5. Questo meno di 5 intanto non va. Non scende. È chiaro, anche questo qua, sente bene. Ti ho messo, ti ho fatto vedere quella cassa che ho messo. Sì, le casse esterne sono sempre meglio. Questa qua poi c'ha i filtri, capito? Basta che li metti il filtro e... acciappa da giornalau. Oh già, ma ti che i miei negativi sono. Guarda per te. Prova. No, positivi. Perché c'è una cosa strana. Allora, se la radio l'attacco al commutatore, su due commutatori, tutte e due professionali, mi va in picchi negativi sia lo strumento sia lo strumento della radio che lo strumento del coso, del rosmetro. Non capisco. Mentre senza è positivo, eppure sono tutti e due ottimi strumenti questi. Boh. Cioè, quello che ti è arrivato adesso sta qui? No, non... E così, se io la radio l'attacco al commutatore di antenna, capito, mi va in negativo sia lo strumento della radio sia lo strumento del rosmetro, però se senza commutatore è positivo, che strano. Sarà in corto come era il mio, che andava in corto, mi sono cacciato, ho cambiato spezzoni, fatto, e il commutatore d'antenna era, e non c'era niente da fare. Quelli, per commutatori che ho preso io, era nuovo, è nuovo, appena preso. Si raggiù la palla dall'incazzatura, invece dovevo portare per non cambiare, perché è andato tutto in corto, cazzo, ho cambiato, sono stato tutta la sera, cambiando spezzoni, saldando, facendo. Beh, era come un fattore in corso. Sì, ma io ne ho due e li ho sempre usati, sono sempre attaccati alle radio per commutare appunto dal 48 agli altri e funzionava bene. Strano. Anche quello funzionava bene lui, prima di funzionare male funzionava bene, cosa ha fatto? Un due settimane funzionando bene e poi è andato in corso. L'ho aperto per vedere se erano le lamelle, non era niente di tutto ciò. Era in corto e buono, si compriva a bagosto. Guarda, guardate la foto. Cosa vuoi dire? È strano. E poi se sarebbe in corto funzionerebbe male, anche appunto ti darebbe ROS comunque nella radio. Invece non, adesso lo farò, ma su due mi sembra molto molto strana la cosa, capito? Gli spettatori non possono essere perché collegati direttamente vanno in positivo, sia sullo strumento della radio che sul rosmetro. E a volte non ti sa dare delle risposte, bisogna andare a tentativi perché sono casini, quando si mettono queste cose di mezzo sono casini, si compra di mai cos'hai. Adesso li sto provando col tesseract, vediamo un po'. Niente, uno è a posto. Ma poi sono professionali, semi professionali anche qui, non so di chi di capito. Ho già. Ho capito. Ma anche quelli ci possono guastare. Ma su tutte e due, non va a essere. E magari qualche spezzone, qualche cosa che. Spezzone che porta agli apparati. Controllati, no, anche perché senza rosmetro, no, senza commutatore collegato va in positivo sia il rosmetro che la radio. No, li ho controllati gli spezzoni che ci sono attaccati, sono a posto. La prima cosa che ho fatto, perché ho detto strano, su due commutatori che faccia questo scherzo, e allora ho controllato prima i cavi e sono a posto. Allora ho attaccato direttamente l'antenna direttamente al rosmetro e va in positivo. Sì, anche io l'ho fatto così. L'ultima prova che ho fatto, però, capito, prima mi sono cancellato tutta la sera facendo spezzoni, cambiando, facendo, saldando, facendo spezzoni nuovi per paura che fossero interrotti, ecco. Beh, la stessa cosa. Dopo che ho messo tutti gli spezzoni nuovi facevano la stessa identica cosa. Allora cosa ho fatto? Ho provato a mettere in diretta, l'apparato andava bene, 1 euro di stazionari, e cazzo andava a fare stazionari a fondo scala. Ma infatti ho detto, ma che sia lo strumento, ho detto l'SX100, e invece no, perché ho messo il 1000 e il quadrumatessi. Che cosa strana però. Dimmi, ciao Gianni. Ciao Gianni. Ciao piccolina. Come ti chiami, me lo dici? Desiree. Oh, che bel nome che c'hai. Che bel nome, Desiree. Caspita, vuol dire desiderio. Sì. Sì. Io sono dall'asilo, mi dici. Ero dormita prima. Invece andare a portare i cani giù. Puoi scendere giù a giocare, ma sta piovendo, amore. Questa sembra poca roba, leggera leggera. Dio, tu non vai nel fango intanto, dì. No. Oia, oia. E adesso cosa sta facendo Desiri? Giughetti. Preparandosi sta a portare giù a Lea. Ma vai anche tu. Non lo sapevo che c'era il cane. Sì, c'è già 4 anni. No. No. La mattina, almeno 3 volte, capito, ci portiamo giù. Io gli faccio fare, lo porto alle 8, poi lo porto alle 8 di sera, 2 volte. Quando era più piccolo però lo portava anche 3-4 volte. Lui adesso è a fianco a me che sta dormendo, sta russando come un maiale. Faccio il russate, no, mi lo senti. Sì, sì. Ma poco a poco. Perché non dà. Ascoltati quell'audio. Oh lui. No, non è. È un alimentatore. Ah. Infatti si sente il ronzio. Kappa. Ce lo sento anch'io. Ah, di quelli alimentatori a cosa? Trasformatori? No, quello da 50 ampere. Della Proxe. No, è la ventola. Scusa, se è uno switching strano, non lo dovrebbe fare. Guarda, adesso lo fa. 1, 2, 3, 4, 5. No, si sente quando non parli. Adesso è più ronzio di ventola. Perché c'è l'alimentatore pure giù. Perché è tutto lì, giusto? Però a ripiani, dai, al primo piano c'è, al piano di giù ci sono gli alimentatori, e invece quelli di su, capito, se il microfono lo metto vicino lo fa. Sì. Che magari 5? Da fittendo, già chiesa di niente. Ci ha comprato le patate genuove, le sta provando. Perché di Giamara, amiche, no? Basta affittare così la bruva più bella, che siamo in tanti. Ma sa che gli amici non fanno bene, quindi non li chiamo. Tanto li veniva duburo di abbette. Chi può vai, perché? Sì, hai duburo di venire. Io fossi stato Manuele mi sarei toccato. Anche a chi non è magenta come ti maladì. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia stimata. A luglio la corsa, l'ecografia. Devi farti? Sì, poi con la boccia ti ho fatto vedere. Ah. Vabbè, però sei tranquillo, dai. Ho fatto qualche ricerca. Mamma mia, non è cosa bella. Che parola. Non ti facciare un capo per vale per l'orrotto. Poi, lasciami lì. Poi magari ci sono tanti casi, capito? Non è che è una cosa solo. Poi, poi mi serve se andare da Rigitto, magari qualche altra cosa, tu che la dottore. No, però ho guardato anche video di medici che ne parlano, capito? Io mi informo, guardo più di un video, guardo, capito, tutti che cose, non è che guardo chi l'ha avuto, chi ha detto cazzate. Ne guardo video di dottori, addirittura video di operazioni fatte. Idem, io prima di operare sapevo già cosa mi dovevano fare, sapevo già tutto. E sicché poi lì c'è la musica, vediamo. Sono legato le linfatiche che si gonfiano, capito? Ma non si devono gonfiare, capito? Se non ci sono problemi non si devono gonfiare, soprattutto così, in quel modo, capito? E la gara? Si gonfia, ma solitamente qua ci sono infezioni, te lo dico io. Ma tu ti senti qualche infezione da qualche parte? Ti senti di avere qualche infezione? Io no. Adesso vedranno, dall'ecografia. Te ne accorgi da febbre, queste cose qua? No, niente febbre, niente, no. Nulla. E lui? Ma non ti faccia la testa prima di averla rotta, capito? E uno o l'altro, non è che ci sono, capito? A quanto dicono, o è uno o è l'altro. Non ci sono tante cose, capito? Non già. Possono essere calcoli. O uno o l'altro, non fuggi. E ai. Ma auguriamoci che non sia nulla, dai. Che magari qualche fesseria. Anche Marco, mio figlio, gli era venuta una cosa nella gola. Eravamo molto preoccupati, invece hanno dovuto togliere lo stesso per analizzare, quindi hanno dovuto operare, però intanto non era niente di grave, era una crescenza di carne e basta, non era niente di che. Meglio così. Quindi tu non ti allarmare prima del tempo, prima fai quello che devi fare, dopo potrai anche allarmarti se c'è il caso, ma magari non è il caso. Buttateci tutto, io se inizio dove lo buttate. Uè, Marco Conno. Buonasera a tutti. Ciao Marconi, sto bene? Yeah. Stavo scrivendo su Amazon una recensione, stavo carellando, così ho sentito voi. Stavo facendo quattro chiacchiere con Luca. Sempre assente, Marcolino. Per forza, va a rimorchiare. E altro rimorchiare, c'ho un mal d'orecchio a sinistra, devo essere rimorchiato io. Ma quello è il dolore che viene dai ricchioni. Purdo sai, può essere pure, non si sa. È come che avessi preso freddo, un colpo d'aria all'orecchio. Cosa, Marco? È come che avessi preso un colpo d'aria. Probabilmente, se è quello del finestrino, la parte del finestrino, l'orecchio sinistro, potrebbe essere quello. Anzi, guarda, in macchina non sta uscendo niente, solo in moto. È più pratica per me. Sì, anche per prenderci col binaria. Un po' sì, ma tanto guarda, in macchina vado sempre a vetri aperti. A vetri aperti, anche in giornate del genere io ho bisogno di sentire l'aria. Luca, ho visto quel bello strumento. Tutto, quello fa tutto, sì, da come hai detto tu. Marco, ti piace questa modulazione? Ho cambiato microfono. Sì, abbastanza. Abbastanza neutra, non è né metallica né rimbombante né cupa, è una via di mezzo, che roba è? L'MC60 col Galax. Oh! Sembra più bilanciato come, cioè non è come col K che fa i vocioni, capito? È più bilanciato, dai, perché già l'apparato esce bene col mic normale. Io sto usando il KPO, il microfono da palmo KPO con col 3009 classico. Stavo sbagliando il microfono, sto prendendo l'altro. sì sì, no, vai bene Marco, se vuoi ti do anche il segnale, se ti può interessare. No, no, il segnale, in città che segnale dobbiamo dare? Non, come che non ci sia? Ogni tanto provo a spegnere lo smitter, qua mettendo SVR, no? Mi trovo così male se non vedo il segnale. Cioè, oltre che parli con una persona, avere il segnale, sembra che sia più o più presente la radio, no? Cioè, ma con la radio senza strumenti è boh, una scatola che parla. È una cosa strana. Ehi, calma, calma. Avanti, Luca. Luca, hai risolto con quel problema? Sì, ho risolto. Aspetta, sì. Ho capito cos'è. E questa è la 48, com'è Marco? Quello? Sicuro sia un K48, eh? Ah, bobo. No, ipotesi, è un'ipotesi, io non mi... le tindiche non intendo molto, Boh, già, vai fila di due. Marco, all'aso fino. Ma che, l'orecchio adesso, l'orecchio fino. O finocchio. No, finorecchio. Occhio fino, finocchio. Aspetta che, dai, fatemi scrivere sta roba, sennò già ho sbagliato, ho sfiorato appena appena, mi ha annullato la recensione, ho dovuto riscrivere tutto da capo. Eia, KK. Cosa ti stavo dicendo, Luca? Ho cambiato la posizione del microfono, guarda se va bene adesso. E qua va sempre bene, toccando sopra e sotto. No, no, no, la posizione è... perché era troppo a fianco all'apparecchio, quindi adesso l'ho spostato un po'. Ma si sente uguale, già quello è un capito leggero. Quando parli no, naturalmente. L'avvento, l'ho sento anche senza premere. E tu bloccala. Non si può, questo qui ce l'ha fissa, capito? Ce l'ha sempre in funzione, questo è da 50 ampere. Non si può bloccare l'avvento. No, io ho fatto, a quegli switching gli ho fatto quel lavoro là. Hai visto? Potenziometro, c'è circuitino, che regola la velocità della ventola, perché lì va sempre a 1000. Sì, è allucinante quella ventola, è sempre a manetta, è rumorosa, è molto. Quale? La ventola di quell'alimentatorino, se è quello che penso io, Luca, l'alimentatorino piatto, quello per luci LED. E da me è fissa, e sembra una turbina, è molto rumorosa. Se proprio senti il coso dell'aria, amici. Ma ti avevo mandato il video anche, hai visto come ho risolto io? Sì, l'ho visto, anche le foto, guarda che certe magari non ti appare la spunta, però le ho lette lo stesso, Luca. Anche i video li ho aperti e non ti appare, non so se ti appaia la spunta, per esempio, dei video ti compare negli ultimi 4 video. Sì, che hai visualizzato, sì. No, sai perché? Allora, praticamente i video certe volte, magari me li guardo più tardi, li apro direttamente dalla galleria, non li apro da WhatsApp, dalla tua pagina, li apro direttamente dalla galleria, però a quanto pare ti dà lo stesso il segno di lettura, dai. Ah, ecco. Ecco. Sì, sì, sì. Vabbè, ma voi ci avete perso. Io già, io sto scrivendo qua su Amazon, se no non riesco a completare. La recensione è lunghissima. No, è che sono lento io con i tasti, poi devo allegare delle foto. E così, dai. Infatti ti ho mandato più di un video. Ti ho mandato. Cava cava. Aiaia. Uia. C'ho mal di schiena, raga. Qualche massaggiatrice brava, ma deve essere carina però. Ma con l'happy ending? Guarda, basta che sia bionda, con gli occhi azzurri, di quelle che faccia sognare. Ma a parte gli scherzi, devo andare da sto come cacchio si chiama, vabbè, quelli che fanno con le manovre strane che si fanno scricchiolare tutte le ossa, osteopati. Quindi magari non è questione di cosa, no? Di scricchiolare, magari con GRC. No, lo sai cos'è? Che io ho fatto sempre lavori pesanti, tirando pedane, contraspalle a mano, e tutti gli sforzi che ho fatto, ma lo dici come domanda di un conto. Tu prova a tirare le pedane quando il camion è in discesa sulla pedana del camion che devi tirarla, devi fare 3 volte di più di forza per farla entrare dentro. Poi lì, c'è a quello che non arriva di nuda a 50 anni, c'è a quello però lo segna parecchio. Che tu senti i gridi, la Dio batte un 50 anni, ma te lo ti va giù dall'altro ti va di mare, c'è boh. No, le ossa ti si consumano, eh. A me il dottore me l'ha detto che è dovuto al lavoro usurante, si chiama usurante proprio perché ti si consumano le ossa. Ah, tipo osteoporosi. No, io c'ho proprio, come si chiama? C'ho artrosi, oxartrosi delle gambe e artrosi abbastanza pronunciata in tutta l'essa del corpo, capito? Comunque mi sento sempre ardito. Questa, guarda questa. E lui, ci siamo, dai, ci siamo. Ah, pure! Ci siamo. Cioè, non è neanche la perfezione. Prendiamo tutto quello che c'era con me. Balconcino, non lo so, vivo. Apri la foto e leggi. Guarda cosa ti ho mandato adesso. Io stesso non so che busco male quanto a te. Se non mi faccio ogni tanto questa roba qua o altro che faccio io stesso, so che ho già diritto. E questa cosa qui bene ti fa? Aspetta, ma scherzi. Vabbè, no, fa benissimo. Vabbè, io faccio anche altro. Ora dire una cosa, ma la radio va bene come volume, devo alzarla? Provo a alzarla, ma dipende, poi magari non so Marco che forse ce l'hai più vicino. Sì, si potrebbe alzare, ma qua per comunicazioni da salotto non è nemmeno necessario. Guarda a vedere se va meglio così, 1, 2, 3, 4, 5. Sì, meglio già, francamente adesso avendola sentita ti dico meglio così, perché prima era giusta mia, adesso è ottima e abbondante, capa. Cava cava. Andare, non parlo di toccare, no? È Natalino oggi, non è uscito. Natalino. Cava cava. Adesso per dire, secondo come mi metto, c'ho tutto il ciccolo, uia, progaridale. A me già. In genere, lo sto dicendo in generale, no? Ho detto, c'ho tutto il ciccolo, mi sono sdraiato, adesso il dolore della schiena mi sta ripercuotendo anche nel collo. Ehi, si irradia. Ma è una seccatura, poi vedi, il tempo è anche umido. In realtà io... ecco perché mi vengono i malanni, io sono scalzo, cioè, vabbè, pigiama, piedi poggiati sul tavolino, però c'ho la finestra aperta sia qua che dall'altra parte dell'appartamento, quindi c'è una corrente qua, umida, che non ti dico, però sai cos'è, con questi gatti, la sabbia dei gatti, gliela metti nuova, basta che vadano la prima volta nella sabbietta per un fiaggo, adesso me li faccio al forno questi gatti, o in umido anche. Perché me la devi pulire giornalmente, Marco? Io ti compravo quella buona, Gat Sun si chiama. Costa di più, però l'odore non lo senti. E alla menta. Ma qua lo senti già. Sa cos'è? Allora tu gliela metti nuova, la sabbietta, di quella rossiccia, quella migliore, perché allora quella grigia, come fanno la pipì, diventa cemento. È un problema anche staccarla e cambiarla. Quella ghiaiosa tipo sabbia siliccia non assorbe niente e quindi non la prendo mai più. Sto usando questa rossa che sembra tipo argilla, ha un nome particolare, si chiama attapulgite il tipo di materiale, che riesce a bersi, diciamo, la pipì. Il problema è che tu appena gli cambi la sabbia loro vanno a fare la pupù e quella puzza. Cioè, cambiata stamattina, come vanno nel pomeriggio a fare la pupù? Beh, bisogna qua mettersi davvero la maschera antigas. E anche tu profumata la va, è normale, dai, poverino. Io, per dire, la lettera ce l'avevo nel terrazzo, non era in contatto con la casa, quindi loro quando andavano facevano i bisogni, era sotto un mobiletto dove mettevano la roba, se ne andavano lì sotto, la facevano. E poi io la mattina la pulivo, ogni mattina c'avevo la paletta, quella che c'ha le gratte, che raccoglie solo le cose solide, siccome si formavano le palle quando facevano i bisogni, e la raccoglievo ogni mattina, era profumata, non si sentiva mai l'odore. Poi se ne la lasci più giorni, poi io ho preso qualche cosa di umidità, anche i muscoli adesso mi stanno facendo male, cazzo, allora nella gamba, via, mi ha dolore, tipo un crampo mi è venuto. E al polpaccio, io a seconda di come dormo, di come, sai quando nel sonno fai quelle, tendi i muscoli, non so come si chiami, certe volte certi crampi al polpaccio, porca miseria, quando ti stiri troppo, quando ti stiracchi troppo, certe volte si proprio senti che si arriccia il muscolo, è un male cane. Lo so, e poi ti dura anche giorni dopo, non passa così in fretta. Beh sì, l'indolenzimento potrebbe durare, cioè, secondo quanto è forte il crampo ti dura un po' l'indolenzimento. E insomma, concisemmo, e la vecchiaia è carogna. Lo so, purtroppo, meglio i dolori che altre cose più gravi, dai. Diciamo che ci possiamo consolare col fatto che c'è gente che sta peggio di noi. Sì, una mezza consolazione, dai, mal comune è mezzo gaudio, così. Lo so, bisogna fare sempre qualcosa, no? Per consolarsi. Via. Ma che strano. Ah, c'è la spia rossa accesa, non mi avete detto niente, sì su. Non me ne ero accorto, ero attaccato. No, non si chiama Marco, io adesso sono sdraiato, non sto parlando, Marco lo smetto, ti dico la verità. E la radio è limpida, per cui non mi sono reso conto di nulla. E qua è molto, è in fondo, praticamente nel vano che sei sotto, non sotto dove poggio, e sei in fondo e non lo vedi, devi abbassarti e guardare apposta. Aspetta che mi sta chiamando mamma, non ne adivini una. Quando sei anziani così, avanti. Poi Luca è anche il nonno. Luca! A parli, a parli. Luca lì, Luca, Luca. Marco co. Che ha mangiato il scagliolo? Vai, ma detto un brolorino di mammo. Ah, è Lucrezia? Ah, è Giannini, tu sì che mi camminevi. Oh, che tempo di cavolo che c'è, no? Io sto per uscire, da. Sto uscendo perché c'ho una macchina, ma l'ho prestata, siamo un cazzo, ma sei rimasta a casa. Bravo. Ti ha freddo. Poi va. Oh, vabbè, già. Che si dice, lei? E dove stai andando a rimorchiare? No, non mi devo rimorchiare, ciao già, sono con questa Michela. Adesso vado a casa sua, e poi più tardi usciamo. Ah, ma tu vai? Questo è! Emanuele! Ciufola! Ciufola! Ma si sta affittando mai? Ah, sto piazzando, e vado a più lasciato. Ah, in un cantiere, via, un attimo. Dalle 7 alle 19, cosa dici? Sì, dalle 7 di mattina fino alle 7 di sera, praticamente. Cazzo, no, io sto fiori. Proprio lo so, lavoro non ce n'è, però sono proprio ore. Sì, vabbè, ma non è che è stressante come lavoro, e non è che ti fai fatica e roba del genere. Devi stare lì, ti puoi guardare il cellulare, fare qualsiasi cosa, come se fossi in casa. Non è così, no. Ti pari, non è così. Quando sei a casa ti puoi pure dormire, chi mi fa ti puoi dormire? Non è così, no, già. Non è così come dici tu. Sì, non fai niente, però devi stare in chivi. Allora, io non ho mai fatto la guardia giurata, però avevo un amico che faceva la guardia giurata e andava a fare compagnia, quindi vedevo tutto quello che faceva. Beveva, fumava, si pigliava il cellulare, si andava, cioè tutte queste cose qua, ecco. E poi faceva il giro, c'aveva il pastore tedesco, lui ce lo portava, era suo, il pastore tedesco, faceva il giro di queste ville che controllava, una, lui faceva anti-rapina, e praticamente c'aveva anche il cane, questo cane l'aveva trovato, ce l'ha allevato lui e se lo portava con lui, faceva il giro col cane. In questa villa la facevamo insieme, perché quando andava andava insieme a lui, faceva il giro, c'era, in questa villa c'era di tutto, c'era terreno, c'erano trattori, c'erano attrezzi agricoli, di tutto. Già ho capito, però sto peone, cioè. quando vive, come il panettiere per esempio, si vede lì lavori comunque, fa un bel di ore, c'è la notte impegnata per fare il panettiere, come bussia, anche lì fanno i notturni, però vabbè, niente da lì, no, e cioè, non sto criticando, ognuno lo può fare, adesso devo fare, vabbè, non te lo dico qua, dai, te lo dico dopo su WhatsApp, devo fare una cosa. Quanto stavo dicendo, Luca, praticamente sì, sono lavori un po' stressanti, nel senso, però non sono faticosi. Che quello che succede, non è successo in 50 anni, può succedere in un minuto, quello è. Che se fanno una rapina armata e roba del genere e tu non sei armato è un casino. Ciao, c'è stato già 60. Sì, col Galaxy. Ah, ok. Perché? Si sente? Sì, va bene, va bene. Alla grande, oh, ragazzi. Cavaliamo. Vabbè. Luca mi ha fatto gli attacchi. L'ho messo nel garage. E mi ha detto che va bene. Che è bello. Usano una giugata, dici. Stai certo, ho mal di testa. Ma sei mangiato alle 3. Perché sa, cioè, non posso mangiare, ma tu che non ce l'ha a posto. Che strano, vabbè, comunque. Perché sono sempre andato a mangiare, dice dovevi chiamare la prima, al posto c'era, comunque vabbè, adesso voglio lavarmi, la metà basta, e comunque sia, ci ho mangiato una pizza lì al corso, una pizza col prosciutto, come si dice, una pizza col prosciutto e un'aranciata, 7 euro. Se lo ci dà la spendevo più o meno la stessa cosa, mi fanno 10, da però mangia due stigani, c'è roba cucinata, no pizza, quando se stavo arrivando già un po' con la cortesia, perché boh, cioè, mi sta segnando cosa stazionale, cioè, pari così già. Oh Lu, oh, stavo chiamando, boh, dimmi. Mi hanno mandato un messaggino, dai, stavo rispondendo. Dai, tanto che mi sto cambiando già. Ui, ragazzi, una giugana però. Quando non ce ne voglia, allora cosa fa? Io non sono uscito, ma tanto non faccio tardi. Insomma, sono mezzanotte, sono a casa. Sono prima a Burgo. Non ce n'è Buglia zero, come Renato mi Buglia zero, Cagliari uno, Renato zero. Ma la macchina te l'hai comprata? No, allora cercando su Marketplace, sono i cacchi di Giamma, ho visto che qua c'era questa Panda del 98, nuova, 165.000 km, tutta sempre tagliandata, fatta, perfetta, combatta nuovo, 2.000 euro la stava dando. Ora mi ha detto che me la dava di meno. Facciamo l'appuntamento stasera, poi mi ha mandato un messaggio e mi ha detto che l'ha già venduta. Vabbè. Prima di basta venire a vederla. Non è che mi ha detto il primo che viene se la compra. Devo solo andare a vederla e basta, sarà a posto. E niente, no, non ancora niente già. E cosa mi la macchina? Non mi chiamo la travaglia, a pranzo qualcosa me la compro. Vabbè, fai bene. Vabbè, ma per andare a lavorare almeno una macchinetta te la potresti prendere, perché se tu trovi il lavoro fuori, come cacchio fai ad andare? Appena mi danno compro, ora me la compro la macchina, capito? La macchinetta me la cerco, questa ciappa. Se il tempo lo permette scendo in bici provvisoriamente. Sì, vabbè, per l'estate sì, va bene. No, Marco deve partire a San Teodoro a fare la stagione. A chi conto? No, Marco mio figlio. Marcolino, quello che ti chiamava D'Artagnan. A fare che cosa? Cameriere. In travaglio, io voglio diplomato, laureato. No, diplomato ma quasi laureato. Mi mancano due esami più la tesi di laurea. Chissà magari, dai. Mi trovi qualcosa di buono, visto che ha studiato. Un casino. È come il figlio della mia ex, diplomato. Adesso sta andando all'università. E niente. Va bene, bisogna studiare già. Sono studi, io sono la musica, capito? Perché andiamo a ganarvelo, sono manco riposato, come sono stasera. Di solito il pomeriggio mi riposo sempre. E io ho fatto una scuola che se la CIR rimaneva aperta, prendeva anche un bel soldi. Perché io ho fatto le professionali come saldatore retro a Sacettinico e sono saldatore, c'ho l'attestato di saldatore, la specializzazione. E praticamente io lavoravo all'inizio alla Montubi, poi la Montubi ha chiuso e sono entrato lì dove poi sono morto. Ho capito, la pera è inizio, un camionista. No, questo qua è Cosio. Manuele a casa di Tonino penso. Ma è un camionista. Vero? Com'è Tonino? Tonino che va a sacca, vuoi finire? Vuoi finire? Ti vedo la hai rotto i coglioni? Buonasera a tutti, so. Visto il Tonino? Ah, vuoi finire? Vuoi parlare con un muro? Drogato! Ecco che faceva incazzare a Paoletto, quello mio, Luca. Tu sì che mi cambi i nervi. Quando dicevo, Paole, dalla quella grande ragazza di mamma tua! Già lo facevate incazzare poco, gatto. Piero lo faceva incazzare, tutto gatto, ciao Tonino. Lo faceva incazzare Piero, lo tutto calmo lui, aiuto, fai da bravo, poi fate un brodino di marmo e vattene a letto. Il brodino di marmo che ti faccio? Per carità, e quando è entrata la madre che Paoletto era ben incazzato, si stava sgolando. Piero ha detto, signora, facci da brava, se non vengo lì, ti siete la mutanda e le faccio scolaggioni. E voi usi, cos'è? Tempo brutto, non uscite, no? Gianni. Ehi, Antonino. Ho detto, tempo brutto, non uscite. No, io mi sto rilassando, mi sono pulito tutta la casa stamattina, mi sono stressato. E adesso mi sono sdraiato un po' per rilassarmi un po', dai. E tu, Luca? Io sono in uscita, mi manca poco. Ma esci con la barca? Con la barca? Che sempre prendeva. No, c'ho la macchina. No, meglio così, dai. Tempo brutto, dai, io sono uscito stamattina, ma 10 minuti. Sono ritratto subito a comprare qualcosa che mi serviva, buon passa. Per carità, c'ho una bevuta che la passa la voglia. Mi sono fatto un bel bisolino, mi sono alzato poco fa. Sì, qua non è brutto. Mi ha mandato i filmati, mia figlia sotto casa sua a Bologna, cosa c'è? Me la posso immaginare, ho visto in televisione Emilia Romagna e preso in pieno. Cazzo, ma bombe d'acqua brutto. Ecco che in pochi minuti si è riempito tutto, un casino, macchine che camminavano da sole, galleggiavano. La colpa io la do a 3 persone, sì, 2 persone più, allora ti spiego, uno è il sindaco, l'altro è il prefetto, il presidente della regione, e poi il governo. Precedente, perché quando c'era un altro la regione non sapeva questo problema qua, non ha mai fatto niente. Quindi voi l'ho messo in galera loro, tutto qua. Gli argini dei fiumi bisogna sempre controllarli, pulire i fiumi, tutto quanto, non fanno niente, non fanno manutenzione, Tonino. E questi posti, questi fiumi sono proprio vicino alla città e quindi cosa fanno? Che quando straripano ripulono tutto, non male. Fossero stati lontani, ma cazzo, solo proprio dove c'è la città. Devono fare le sponde del letto, del fiume, il cemento armato, ma io glielo devo dire queste cose qua. stesso. Quando piove bombe d'acqua, si... poi tutte le fognature che non disporti, tra l'altro non le pulisco, giustamente strarifa e va a finire la città, succede questo che è successo. 14 morti, ma stiamo scherzando, no. Abbassa, te ne sei un bel altro, cazzo. Aspetta, ecco, così va bene. Poi sono beato, già confermi, un beato alla radio. E io so con le cuffie, sì, lo sento abbastanza forte, ma a me non mi dà molto fastidio. Sì, è forte, perché è forte quel microfono, come sicuramente anche questo qua si sente bene o no. Cioè, la tua va bene, perfetta, ma sei troppo alta, prova a tonire. Adesso ho passato a un quarto addirittura. Sì, è sempre assa. Vabbè, lasciala così. Comunque, capito, avete. Le sponde del fiume, del letto del fiume, come vogliamo chiamarlo, ci vanno esattamente le sponde in cemento armato. È facile, prendi il fiume, lo blocchi, lo devi, fai fare un giro verde, per questo che tu hai chiuso. Lavori cemento pulito, cemento armato, per terra, ai fianchi, alzi i muri, diciamo, ai cemento armato, 30-40 cm di spessore. Questo si deve fare, non l'hanno mai fatto in tanti anni, avuto tanti soldi per altre calzate che vogliono loro, si mangia o meno si piglia e non fanno niente. Casino, purtroppo i soldi ci sono, però non li sanno amministrare, capito? Si rimangiano, non li spendono per quello che devono fare. Si rimangiano, se ne fanno a fette, si dividono le fette. Per le guerre degli altri ci sono sempre i soldi, buonasera. Ciao Marcolino. Capito, per finanziare le guerre altrui i soldi li trovano. Il giustiziere della sera. Quell'altro Zelinski ha dato la domanda di là e poi armi. E poi tra l'altro ha avuto parole col Papa, perché il Papa ha detto per la pace e lui assolutamente no. E dopo la guerra io l'avrei impiccato. Ma l'ha detto il Papa. Cosa? Il Papa l'ha detto che vuole la guerra, o Zelinski? No, il Papa ha detto che per la pace. Zelinski ha detto che assolutamente vuole soldi e guerra. Cacchio, pagata dall'Europa, però la guerra era dagli Stati Uniti. Oh, vabbè. Però la Russia, vabbè, tutti hanno colpe, però anche i russi hanno questo vizio, capito, di allargarsi e di riprendersi i territori, cioè in un periodo di stabilità. Questo Putin se ne esce ancora con pensieri espansionistici, boh. Contento lui. Marco, io sono con Putin, non hai capito che ha ragione al 1000 per 1000. Questa questione è da anni, 14-15 anni fa, a me mi ha detto uno ucraina proprio, che era la parente della morena di mamma, quindi questo non è una cosa nuova che è successo la guerra. Questo pupazzo, che è un pupazzo Zelinski, era un comico a tirare buttato e dove la guerra con le armi degli altri. All'amica l'ha chiesto, non so, quegli aerei più supersonici eccetera. E l'America ha detto meglio di no, perché poi succede casino veramente, non che siamo le mirino tutti quanti. Se vi fa da bravo che gioca animali l'avrei piccato, cara. Sì, lo so che questa storia è roba vecchiotta, questa storia di quella zona lì. Però boh, c'è cosa bravo di rivendicare, che erano sui territori. E noi avevamo, noi come romani, il Sacro Romano Impero, avevamo tutta Europa. Allora cominciamo anche noi a riprenderci i territori, vediamo come va a finire. Va bene che noi non abbiamo la potenza economica per fare niente, per rivendicare proprio nulla. E come che tu, la Sardegna è nostra, e l'Italia non ci deve neanche rompere le palle, quello noi siamo l'Italia, si mette tutta l'Italia contro di noi. Però c'è che la taglio, bisogna studiare bene questa cosa qua. È inutile, lui che vuole solo guerra, allora preso e peccato. Io sono per tutti, ripeto, come una tutti. Lui è un animale, le città distrutte, i morti, tutte sulla sua coscienza. Un animale, buon fatto, avanti già. E bisogna dire che c'è anche roba politica, perché Putin è di sinistra e Coso e Zelensky è di destra, capito? Quindi è una cosa, hai visto quelli di destra come li aiutano subito, cazzarola. Ma poi non può, uno non può fare la guerra prendendo le fare con le tue possibilità, non con quelle degli altri. Così ci avete a lottarsi a noi tutte queste cose qua. Le armi che riceviamo l'Italia, sei tranquillo, qui sono un treno merci. Non lo capisco. Senso dall'Italia partendo, quindi in su tutta la roba che viene dall'Italia adesso poi metterà le sanzioni a noi per pagare una guerra che a loro non serve, non ci interessa, non ce la butti nulla. Cosa va a dire a Mattarella in testa di cazzo, se ho dato la frase a televisione, l'Italia è con te, animale. Io con Zelensky non sono mai stato, ammazza dei due Zelensky. Tony, troppo amplificata, io capisco la metà, perché poi parli veloce tu, dovresti abbassare, è veramente fuori misura quella modulazione. Va bene così, 1, 2, 3, prova. Troppo alta, abbassa Tony, è un bel alta, cazzo, abbassa, mettilo, parti da zero. Aiuta che abbassa così, tocco. Avanti. Allora vedi il radio, tanto male che usa, che non lo uso neanche. Ma la mia è così amplificata? No. No, è tremendo quel mic, è tremendo, cioè anche se lo abbassi è spropositatamente forte. Poi se Tonino parla veloce e certe volte non riesco a capire tutto il passaggio. Ciao Luca, non ti avevo sentito che ero distante prima. Poi aiutando questi paesi, tornando alle scorse poco fa, ci rimettiamo contro i russi, capito? Aiutando i tedeschi, ci mettiamo i russi contro e ci piangiamo noi per loro. Va bene, ho cambiato il microfono. Com'è questa radio? Forte lo stesso, forse meno dell'altra. Però già, siccome Putin, che era un boia, si sapeva già da prima, era un ex KGB, no? KGB, quindi un fetentone lo era da prima, e anche questi giornalisti ammassati con le radiazioni, col polonio, chi l'altro non so con cosa. Però questo magari si ripiglia l'Ucraina, poi non gli basta, si ripiglia Moldavia, si ripiglia la Polonia che era NATO. Secondo me non si ferma così Putin. Più vede che può prendere, più ne riprende di territori, capito? E poi ci passiamo comunque, che facciamo o che non facciamo nulla. Non esageriamo adesso, la Corina. Lui interessa quell'Ucraina e basta, non interessa poter prendere a Polonia, prendere quello o quell'altro. Giustamente lui ha detto una cosa sacrosanta e l'avrei detto anch'io. Chi aiuta questo pezzo ad animale se la vedrà con noi. Ha ragione. Cosa andiamo noi a metterci in mezzo a aiutare questo animale? Quello è un animale. Ma tu ci pensi quanti morti ci sono per colpa sua? Quante città distrutte per colpa sua? Per un pezzo di merda. Vuole impiccato, quello vuole impiccato. Gli stessi cittadini sui dovrebbero farlo. Quello sì già, è vero. Perché non sono d'accordo, guarda che ci sono ucraini sposati con russi, con russe, russe e russi sposati con ucraine, quindi prima era tutto un popolo, si può dire, e invece adesso con Zelensky è successo quello che è successo. Sì, praticamente l'etnia è la stessa, capito, quindi è come che si facesse la guerra tra fratelli. Però vedi, i fratelli a ovest hanno chiamato anche oltre i cugini, zii, tutto. Luca si nafutti, adesso se ne esce e fa il ganzo, si sarà tutto quanto profumato. Lascialo fare che è giovane Luca. È giovane sì. Perché mi piace fare anche a me. Io lo faccio da quando sono aperto gli occhi, appena sono nato. Mi piace uscire, mi piace vedere quelle donne, mi piace la musica, mi piace il divertimento. Sono stato sempre così, io sempre sabato e domenica ero sempre in discoteca, poi uscivamo dalla discoteca, andavamo nei locali che chiudevano di notte, tardi, poi sempre giretti. Oh, stamattina con mio fratello sono andato in farmacia, ero alle punti a prendere delle medicine, mi hanno ordinato alla dottore, ce l'avevo sul telefonino. Beh, arrivo al bancone, comincia a attaccare il motore cosa che lavora lì. No, una bella ragazza, insomma, oddio, avrà avuto 35 anni. Ma se mi ho visto che lì ci stava, comincia a parlare di più e meno, e mi ha detto, tu non ci abbi mai, sei sempre mattessi. Ma fate l'ottolino, io non sono quello con i baffi che conosce voi. Sì, sì, adesso è tutto con la barba, sembra Babbo Natale. E allora non lo riconosco più. Quello che abitava via Madale era sotto di terra. Papà, adesso è cambiato un bel. Ha ingrassato pure. Si buccia la mazza, rimane della mia. Mi frequentate? Ogni tanto lo porto in giro, lo porto da una parte all'altra. Ed è così contento. 6 anni che non mi parlavo io, già. Lo so, me l'avevi detto. Mi avevi detto anche la situazione. Vabbè, Tony. Tanto la vita è una, mi. Cosa fai? Non ti parli, poi. Quando muore magari ti pensi di quello che hai fatto, lascia perdere. La vita è una, bisogna viversela al meglio possibile. Gaffa, no ma grazie, anche lui è contentissimo, dice, sono felicissimo, una Pasqua, sono rinato, avrei fatto faccia con te, ma guarda quei mani, non abbiamo mai bestiato, abbiamo avuto un po' di parole, basta, poi io ti avevo chiamato, poi tu mi hai chiuso il telefono, da lì hai chiuso tutto, sono passati questi anni, io l'ho trovato vicino a chiesa San Giuseppe, però fermato, e beh, ancora vivo così, e lì per lì mi ha toccato la mano. La vino a qualche cosa, cazzo, che fa stragi, perché le costruisco, sanno cazzo che lo stesso, che ci sono dei pericoli e le costruiscono lo stesso, e lì non è questione di provvedere dopo, è da quando le fanno che sanno già che potrebbe succedere qualsiasi cosa, una slavina, qualche pezzo di cosa che si stacca, di roccia, un po' tutto, ci sono i pericoli, capito? Volevo chiedervi, vado? Vai. No, io non mi ricordo se l'ho letto su un articolo di giornale oppure se era un post su YouTube, c'è una persona che rispondeva, il fatto di dragare e pulire fiumi da eventuali ostacoli per evitare esondazioni eccetera, vabbè, praticamente uno ha detto, dice, una volta si poteva, adesso non si può, cioè come che stesse dicendo che non possono dragare i fiumi o quantomeno ripulirli da ostacoli o roba del genere, ma per caso perché ci sono vincoli ambientali che gli impediscono di fare questa azione, cioè alla fine se è così, per rispettare i vincoli ambientali fanno morire gente e fanno esondare tutto e allagare e distruggere attività commerciali di gente che se l'è lavorata. Come funziona questa storia? Scusa Marco, non ti stavo ascoltando, stavo rispondendo a un messaggio. No, ho detto, uno ha fatto capire da un commento, dice, non si può ripulire i corsi d'acqua, per caso c'è un vincolo ambientale, perché alla fine cioè, preferiscono mettere a rischio le persone, le attività commerciali, magari far morire gente che non, per non violare il vincolo ambientale, come funziona? Da quel che so io non ho mai sentito una cosa del genere, da quel che so io, che ho sentito dire c'è. Però magari hanno messo qualche vincolo, magari per non rovinare i fondali, non lo so. No Gianni, la ditta dove lavoravo io praticamente, che è una SPA, io ho lavorato per 25 anni e poi sono stato in pensione, praticamente lì hanno dato in gestione alla nostra azienda di pulire i letti dei fiumi che c'era a casino e lì hanno pulito, non so quanto hanno stanziato in soldi, la regione, quindi è tutto tranquillo, si può fare la pulizia dei letti, dei fiumi eccetera, là c'era ferro, rotame, macchine, biciclette, moto buttate nel fiume, un casino, e ostacolava il rio, capito? Era le parti di Campomena, quella zona mi ricordo. Ma dipende sempre dalla regione, Mittuni, magari. Magari la regione Salvena lo permette, un'altra regione no. Comunque il fatto dei fiumi, eccetera. Vedi, Sassari è la città più tranquilla che esiste perché è in collina, risulta Sassari. E quindi i fiumi attaccati a culo non ce l'abbiamo. E per quello noi possiamo stare troppo bene. E purtroppo le città che sono in pianura si sa, è un casino. Invece fare le pulizie, come anche qua se ne frega fare le pulizie dei tombini, della fognaria che c'è anche di strada. Perché non gliene frega niente, l'ho visto anch'io, sono sporchi, eccetera, non li pulisco, invece le devo pulire. Perché qualche cosa vicino al cimitero si allaga sempre quella zona, piazza Sant'Antonio, poi già si allaga quando fa molta acqua. Certo, nelle strade qua, nelle zone, no perché è in salita. Andame, hai capito Luca? Ma Luca, pardon, Marco lì. Sì, a meno che questo non si può, non fosse riferito a questione di soldi, non si può, nel senso non ci sono soldi. Però chissà perché ho pensato al vincolo ambientale. Vabbè, non ci sono mai soldi, dicono. Vabbè, poi sì, come ha detto Gianni, dipende anche dai regolamenti regionali, certe cose magari sono intoccabili quasi, tra virgolette, no? Certe cose, e qua in Sardegna è un po' un macello, vabbè, non per i condotti, hai detto, per i così d'acqua, i corsi d'acqua, quello si può fare, dai, è vero, proprio quello, macchine, moto, lavatrici. Mi ricordo che quando c'era stata una specie di nubifragio nel 2008, può essere, quello terribile che c'è stato, al fiume Silis, che sfocia tipo zona quasi Ottavo Pettine di Plaza Mona, era uscito di tutto, lavatrici, motorini, di tutto c'era. Anche il ponte era crollato lì, non ce l'ha fatta più, la distruzione dell'acqua, e poi sto con me la potente, anche il vado tutto, infatti l'hanno rifatto da capo, come Dio comanda. Comunque i governatori, che sono i presidenti della regione, eccetera, io ho fatto sempre il sindacalista, e il sindacalista più pensato, avevo 10 anni, quindi molte cose le ho sapute lì, capito? Praticamente è tutto un giro di magnacciumine, loro i soldi li prendono dal governo, tutti da lì i soldi vengono. La regione distribuisce poi giustamente ai comuni, e poi i comuni devono dare certi tipi di lavori, devono fare la domandina, quella quell'altro. I soldi che le prende la comunità europea, che adesso è anche la comunità europea in mezzo, devono dare 8 miliardi per fare queste strutture la regione si affutte le balle, come quella di Cagliari che è successo, e praticamente ha dovuto tornare i soldi indietro perché molte infrastrutture non le ha fatte, se sono dimenticate oppure non c'era un accordo. E molti giorni sono tornati di nuovo al governo. E purtroppo è così, questi piace mi lasciano lo stipendio, non fanno nulla. Quello è. Mi sa che tutti i consigli comunali sono così, comunali, regionali, alla fine. Approvano solo quello che fa comodo alla propria tasca. Purtroppo è così, avanti già. Vabbè, noi facciamo questi discorsi, ma abbiamo scoperto l'acqua calda. Da una vita che si fa così, che fanno così, non che si fa. Sì, ma io lo so già, dai, lo sapevamo. Quando lavoravo a Fiume Santo, nell'86, tu pensa che si parlava del progetto criogenico a Porto Torres, che molti dicevano cos'è il progetto criogenico. Oh, tutti gli altri cazzati non sappiano nulla. E deve fare un polo criogenico per il metano, che arrivava con le navi metanifere, scaricare il prodotto, scioglierlo perché arrivava congelato e distribuirlo, perché noi non abbiamo niente qua, capito? Oppure fare la tubazione, passando alla Corsica, 3.000 euro, no, 3, com'era, aspetta, 3.000 miliardi di soldi, di lire, allora c'era la lira, c'era. Niente, il presidente della regione di Cagliari ha detto sì, noi 3 miliardi ce l'abbiamo, però il governo lo vuole mettere oltre, capito, per fare questa tubazione qua, che era la miglior cosa per portare il metano in Sardegna. Ecco, dice, non c'è intanto, perché praticamente rimarrà sempre così, abbiamo visto vetrine ancora a gasolio, ma stiamo scherzando, cosa in Sicilia sono i treni elettrici, sì, il treno elettrico c'è a Cagliari, ti passi fino a 10 mani e bomba che hanno il supermercato 9 acro, per un pezzettino. Noi la Sardegna siamo lo scarto dell'Italia, l'abbiamo sempre saputo, ecco perché il poveraccio Baizzo Pirillo voleva fare la Sardegna indipendente, l'hanno infinzarricciato, questa è la legge che abbiamo noi, per carità, che gente, guarda, io mi sa me ne vado alle Tenerife in Spagna e sto mando in affanculo tutto il governo italiano e là risparmio un casino di soldi di tasse, a chi non viene qua non si può più vivere, non lascio niente, io manca tutto l'intero come te la pensione, via, me ne spendo come dico io, c'era mille luci. Sono rientrato, se mi avete chiamato ero in bagno. L'abbiamo più o meno, io penso che stavi mangiando. Kappa, dai. Sono rientrato, ho cambiato microfono, come va questo? Più bassino. Più nasino è questo? Bassino, mi come bravo. Non l'ho giù compreso, Sale. Basso. Radio Pio Pio. Pio Pio piccolina. È un microfono normale. Tu lo dici che è normale, guarda adesso. Si è aumentato, che ragionamento ti fai? Brutto malluccio che non c'è altro. Guarda adesso. Mica ti ha conosciuto è mia, eh? Fai da bravo, così bene va tu lì. Cappa. E io l'avevo abbassato. Lo Shuler è troppo forte, è anche troppo tunito. Lo so, è un microfono con le palle. Ma Shuler è originale, poi ti dico perché. Cappa.